Passione Africana di Gigi Donelli e Roberto Antonini. My name is Yunus Safari. I'm 13 years old. Un saluto da Roberto Antonini. Yunus Safari ha 13 anni, lo sguardo sveglio, le idee chiare, è uno dei tanti bimbi della strada di Kibera, 1 milione di abitanti, la più grande baraccopoli di Nairobi. Abbandonato dai genitori che non lo amavano, ci racconta. Il padre alcolizzato lo picchiava. Ci parla della sua vita di strada, le notti nei cassonetti della spazzatura, la fame, a volte la frutta marcia raccolta alla chiusura del mercato come unico cibo. Paul, 13 anni, è una storia analoga. I genitori che lo cacciano di casa non lo vogliono. Storie che si assomigliano e si ripetono. Ma i bimbi di Kibera non subiscono solo il loro destino, la loro capacità di resistenza all'emarginazione e sopraffazione è sorprendente. Perché hanno ancora una straordinaria voglia di crescere e una voglia di vita vera in tutti gli aspetti. Così padre Renato Chizzito Sesana, combognano italiano, che ha creato un centro in cui questi bimbi possono trovare protezione e frequentare una scuola per un anno con la speranza di un progressivo reintegro nelle loro famiglie o da parenti. In questo centro i bimbi promanano energia e voglia di vivere. I loro sogni non sono svaniti: diventare ministro, dottore, delegato della Croce Rossa, ambasciatore in Italia o semplicemente il miglior calciatore al mondo. Me, I would like to be a Red Cross, whereby I see people when they are hungry, I help them with food. And you? I want to be a minister of education. Minister? Yes. When me I'd be 60 years, I'd like to be ambassador, like Italy. Me, I want to be the best player. Watingibu ile, nina maselangeni, jengesi tembiso sami. Passione Africana è stata realizzata da Radio 24 in collaborazione con Eni.